Non siamo stati contenti e soddisfatti di come gli eventi alluvionali sono stati affrontati nella nostra terra da maggio del 23. I cittadini credo che in larga parte, diciamo, abbiano questo sentimento. Alcuni ne attribuiscono la responsabilità al governo, alcuni l'attribuiscono alla regione, alcuni lo attribuiscono al passato, alcuni al presente. E quindi, diciamo, il lavoro che abbiamo messo in campo da gennaio su tutti i fronti, quello degli indennizzi, delle delocalizzazioni, degli interventi urgenti e degli interventi di riduzione del rischio, è stato mettere in campo un cambiamento molto significativo. È già stato realizzato? No, io non sono soddisfatto del punto a cui siamo in un percorso, diciamo, in itinere, non siamo ancora arrivati a dove vorremmo essere. A giorni la Corte dei Conti dovrebbe licenziare l'ordinanza sulle delocalizzazioni, è importantissima, abbiamo cercato di estenderla il più possibile nella sua applicabilità. Abbiamo mandato tutte le nostre osservazioni al commissario per le semplificazioni sugli indennizzi, quindi per un meccanismo di indennizzo forfettario. Dobbiamo lavorare, questo è un impegno diretto della regione, a potenziare la nostra capacità di fare manutenzione. Non siamo ancora, diciamo, non abbiamo ancora la velocità e la rispondenza che vorremmo avere. La regione ha potenziato le risorse, le abbiamo raddoppiate. Abbiamo approvato al PIA un grande piano di assunzioni di tecnici. Stiamo spronando anche il mondo delle imprese ad assumere le certificazioni, ad avere i patentini, ad avere la possibilità di operare e di lavorare sui fiumi. Abbiamo chiamato i consorzi a lavorare con noi, ma sulle opere, sulla manutenzione dobbiamo ancora fare uno scatto. Non siamo ancora arrivati, dobbiamo migliorarci. Dall'altra parte abbiamo ottenuto dal governo lo stanziamento di 1 miliardo per le opere che riducono il rischio. È un fatto totalmente nuovo, diciamo, non era scontato che a giugno nel decreto fossero contenute queste risorse aggiuntive. I tempi previsti dal governo sono un po' lunghi, noi li vogliamo accelerare, quindi dovremo presentare il primo piano da 500 milioni entro maggio dell'anno prossimo, arriveremo a farlo entro quest'anno. Le risorse partono dal 2027, le anticiperemo come regione dal 2026. Su ogni bacino colpito, su ogni fiume colpito, ci sarà almeno una grande opera di invaso per ridurre il rischio. E poi un piano di prospettiva che fa riacquistare spazi al fiume e che, diciamo, si assume la responsabilità di decidere dove l'acqua deve andare in caso di eventi estremi, invece ovviamente di colpire come è accaduto in maniera indiscriminata. Purtroppo, diciamo, tutti dobbiamo guardare agli eventi con grande preoccupazione. Qualsiasi intervento non può togliere la consapevolezza del rischio idraulico. Voi considerate che in pianura, anche quando tutto funziona, noi abbiamo colonne d'acqua di 9 metri che attraversano la pianura per 30 km, e quindi c'è una paura che ti toglie il sonno, che ti distrugge la vita, e noi quella la dobbiamo combattere, la dobbiamo aggredire e dobbiamo far vedere ai cittadini che sia sulla manutenzione che sulle opere di maggiori dimensioni si fa tutto quello che è nelle nostre possibilità per ridurre il rischio. C'è un'altra paura, che è la consapevolezza del pericolo, che quella invece il problema è stato prima, è stato che per molti anni l'abbiamo sottovalutata. La nostra regione nel Novecento è stata colpita da 2 grandi eventi alluvionali, il 39 più in Romagna e nel Reno, il 66 più in Emilia e già si vede la differenza. Se voi guardate la pianificazione e l'attenzione che c'è stata in Emilia, quasi tutta scaturita dopo l'alluvione del 66, è diversa rispetto a quella che c'è stata nel resto del territorio della regione, dove la memoria dell'evento più grave era molto più datata. Non possiamo permettere che questa paura sparisca. Oggi, se voi andate a Faenza, andate in Val di Zena o andate a Forlì e Cesena, che sono state fra virgolette graziate nel 24, non hanno avuto eventi, già il senso della preoccupazione e della paura è molto diverso. Questo è sbagliato. Quello dell'aumento della sicurezza del territorio è una priorità per tutti, al di là di chi è stato, diciamo, molto colpito negli ultimi 2 anni e a chi invece magari negli ultimi anni è stato colpito una volta sola o addirittura non è stato colpito. Dopo gli eventi di marzo, perché c'è stato anche marzo di quest'anno come spavento e pericolo, abbiamo immediatamente stanziato 15 milioni di euro in tempo reale col commissario. È una cosa, diciamo, che è scontata nella misura in cui servono, ma nella pubblica amministrazione è tutto scontato che a 15 giorni da un evento ci siano già i soldi stanziati. Il cantiere è finalmente partito e quindi c'è un intervento dopo quello di riparazione dell'argine che affronta tutto quel tratto di fiume per metterlo in maggiore sicurezza. Lì gli abitati sono anche molto prossimi al fiume, con molte case, non con poche abitazioni, e questo è il primo punto. Il secondo, abbiamo istituito pochi giorni fa con il commissario una commissione tecnica proprio su Traversara, perché è chiaro che per il superamento della zona rossa e per l'intervento complessivo di rimozione di tutte le macerie e di tutti i problemi che ci sono, non la possiamo scaricare sui singoli proprietari. Il singolo proprietario che già ha avuto la casa distrutta oggi non è nelle condizioni di potersi far carico di tutte le opere di demolizione. Quindi abbiamo chiesto al commissario di poter fare un intervento unico, gestito da noi, dal comune, per poter sistemare tutta la zona rossa. Il tema delle delocalizzazioni non è la soluzione a tutti i mali, perché ci sono dei paesi, delle frazioni che vivono sul fiume da secoli, quindi, diciamo, è un tema molto più radicato. Ci sono alcuni casi casi dove invece in tempi più recenti si è costruito nella prossimità del fiume o dove ci sono abitazioni in dei punti assolutamente non proteggibili. E quindi in questo senso la delocalizzazione è uno strumento fondamentale. In alcuni casi dove c'è la frana incombente sarà, fra virgolette, un obbligo, in molti casi sarà un'opportunità che si offre ai cittadini per poter, diciamo, avere un indennizzo e acquistare o delocalizzare da un'altra parte.